sei con me. Non ho più fredda al cuore, Banzo, perché so che tu sei con me. E tra l'altro, quando penso a questa canzone, penso alla Riviera Romagnola, alla fine degli anni 60. E Banzo, dove ti trovi tu? Dillo ai nostri ascoltatori, perché insomma sei lì sulla battigia di Rimini o di Riccione. Dove sei? O a Cattolica? Spiega un po'. No, in realtà buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, sono a Bagnacavallo, quindi non sulla costa e soprattutto non mi trovo alla fine degli anni 60, ti parlo dal 2022, questa è una precisazione importante. Comunque sei più vicino di noi, voglio dire, dai, alla battigia romagnola. Sono oggettivamente più vicino, sì. Ci sono tanti turisti tedeschi adesso a Bagnacavallo, lì a prendere il sole? No, a Bagnacavallo non ce ne sono mai stati, a memoria d'uomo. Banzo, bentornato. È una puntata ricca di tante cose quella di quest'oggi, però io farei una cosina. Ricorderei ai nostri ascoltatori in 30 secondi che cos'è lo speciale Le Canzoni dell'Estate. Lo speciale Le Canzoni dell'Estate, ve lo dobbiamo proprio spiegare, è uno speciale che contiene tantissime canzoni degli stili più diversi che hanno in qualche modo un riferimento a questa magica stagione, cercando di evitare anche, diciamo, gli aspetti più beceri della musica estiva, a volte no, ma lo facciamo coscientemente, e diciamo illustrando anche sfaccettature molto diverse di questa stagione, che non è solo festa sfrenata o, come diremmo in Romagna, baracca, ecco. E ve lo mostreremo già dalle prossime canzoni, ecco. Assolutamente, però prima di cominciare con la prossima canzone, insomma dopo l'ovvio a luglio di Riccardo Del Turco, visto che sei in Romagna, ripetiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso con il precedente speciale Le Canzoni dell'Estate, perché ci accompagna e ci ha aiutato, anzi è stato insomma un pilastro fondamentale anche per costruire la scaletta di questa puntata, Fausto De Salvia, che voglio salutare e ringraziare e ridare il benvenuto anche a lui a Zibaldone Radio Contrabanda. Grazie, buon pomeriggio a tutti, è sempre un onore poter essere anche in presenza, non solo con le ultimissime, quindi anche quest'anno ritorno allo speciale. Abbiamo fatto una bella selezione di brani non scontati, quindi i riferimenti all'estate sono i più vari e anche imprevedibili, quindi davvero quindi li scopriremo adesso. Piacere poter Fausto, li scopriremo un po' alla volta, esattamente, anzi andiamo subito avanti, grazie di essere con noi, insomma ci spiegherete un po' anche questi brani e perché li abbiamo scelti, andiamo avanti e ci ascoltiamo subito Summer Through My Mind, Richard Youngs, forse un pezzo un po' melancolico come si dice in Spagna, malinconico. Deep fried life, can't remember holidays, thoughts as furniture, 'cause I got summer through my mind. I got summer through my mind. I've got summer through my mind. I've got summer through my mind. I got summer through my mind. I got summer through my mind. Sun is singing on the sand for all the joy and love on land. I got summer through my mind. I got summer through my mind. I've got summer through my mind. I've got summer through my mind. I've got summer through my mind. I've got summer through my mind. Richard Youngs, abbiamo capito, Banzo, insomma, che ha l'estate in testa, però a me sembra più un pezzo scritto nel gelido inverno, no? Sognando un po' l'estate, che ne dici? Probabilmente sì, è sicuramente una possibilità, però mi serviva, ecco, un pezzo di questo tipo per ribadire il concetto che esprimevo poco fa, cioè che l'estate in musica può essere cose molto diverse. E infatti dopo la sigla inevitabile Luglio di Riccardo Del Turco, senza la quale non possiamo vivere, soprattutto non puoi vivere tu in queste puntate, volevo proporre un paio di canzoni, diciamo, dall'atmosfera, ecco, diciamo, canonicamente poco estiva. E infatti anche la prossima continua su questa falsa riga, Steven, perché vi proponiamo, nonostante il titolo ingannevole Summer Heat, questo pezzo dei Comaneci, gruppo ravennate, il pezzo risale al 2007, è, diciamo, tutt'altro che tradizionalmente estivo. E ce l'ascoltiamo, eccola qui, Comaneci, Summer Heat. Sono i Comaneci Summer Heat. Banzo, però adesso facciamo un po' un salto indietro, che ne dici, agli anni 60, no? Sì, ecco, torniamo, potevamo farlo direttamente dopo Riccardo Del Turco, ma ho voluto inserire una variazione. Adesso però ci lanciamo per qualche brano nei magici anni 60, stereotipicamente magici, e cominciamo dalla nostra Italia con un brano della grande Ornella Vanoni, però diciamo non la Vanoni che siamo soliti conoscere, ecco, un po' diversa. Era il 1964 con questa Poco Sole che vi proponiamo immediatamente. Eccolo qua. Chiudete gli occhi e vi immaginate a Portofino nel 64. Poco, poco, troppo poco sole, sole. Senti l'acqua forse troppo fredda, ma sulla spiaggia sai ci siamo solo noi, solamente, solamente noi. poco, poco, troppo poco sole. Guarda in cielo quante, quante nubi, ma sulla spiaggia sai, ci siamo solo noi, solamente, solamente noi. Se torna il sole ci sarà la gente che ritornerà, e non potrà baciarmi più come ora fai, come vorrai. Già sai, ci siamo solo noi, solamente, solamente noi. Poco, poco, troppo, poco sole. Poco, poco, troppo, poco sole. Che bella la voce calda di Ornella Vanoni. Allora, adesso dire però che c'è poco sole in questi giorni è un po' azzardato. Fausto, adesso noi però siamo negli anni 60, ma in realtà facciamo un piccolo salto indietro di qualche anno, al 1959, vero? Esatto, come dice la canzone Birra dei Due Corsari, parla di 38 gradi e mezzo all'ombra, e siamo più vicini, diciamo, all'estate che stiamo vivendo adesso, quindi altro che poco sole. Questo è un pezzo, chi sono i Due Corsari? Penso lo sappiate, comunque sono la primissima incarnazione del duo Giorgio Gaba e Renzo Iannacci, nei loro ruggenti inizi rock and roll, con il gruppo dei Cavalieri che li accompagna, in cui militavano Gianfranco Reverberi, Luigi Tenco al sax, quindi veramente proprio una meraviglia. La crema della prima musica d'autore italiana di quegli anni. E loro incidono questo singolo nel 59, lo riprenderanno poi molti anni dopo, ed è la versione che tutti conoscono, quella che si sente in una nota pubblicità della birra, non diciamo quale birra, che si sente in Italia da diversi anni, ed è la versione che avevano rifatto molti anni dopo in collaborazione con la PFM, come sempre, parliamo sempre di musicisti di altissimo livello. Questa invece è proprio la primissima versione. Ce la andiamo ad ascoltare. 1959, direi, esatto. Gaber e Iannacci, birra, una bella birra fresca, adesso ci starebbe. 38 gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni, e non c'è un alito di vento, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda come senza schiù, scuro chiara ma che sia una birra. Birra? Una birra, please! Yes, sir! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, ed il termometro è impazzito, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda come senza schiù, scuro chiara ma che sia una birra. Una birra? Una birra, please! Yes, sir. Una birra, please! Yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, ed il termometro è impazzito, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda come senza schiuma, scuro chiara ma che sia una birra. Una birra? Una birra, please! Yes, sir. Birra. Gaber e Iannacci, birra 1959. Andiamo un po' più avanti, a metà anni 60, anche per fare un omaggio, è vero Fausto? Esatto, da poco ci ha lasciato Tonino Crippezzi, il leader storico dei Camaleonti, quindi ci sembrava anche doveroso ricordarlo. E cercando nei vari pezzi, li hanno dedicati tanti nella loro carriera, ormai sessantennale praticamente, all'estate, al mare, abbiamo scelto uno dei primissimi pezzi. È una storia curiosa perché questo pezzo, Il mare non racconta mai, parla di estate solo nella versione italiana. È una cover di un pezzo inglese, I Go to Pieces, che in realtà parla di tutt'altro, mentre invece, grazie al testo di Luciano Beretta e Michi Del Prete, quindi parliamo proprio dei autori classici del clan Celentano, diventa una storia adolescenziale, perché alla fine si parla di balli in spiaggia, piedi nudi, quindi siamo veramente nell'atmosfera dell'estate anni 60. E qui abbiamo appunto già Tonino Crippezzi e c'è ancora Ricky Baiocchi, che l'anno dopo lascerà il gruppo e i Camaleonti prenderanno la loro strada definitiva. Allora andiamo ad ascoltarci dal 1966 Il mare non racconta mai, i Camaleonti. E già tardi non si balla più, però da solo non mi lasci. Siamo solo noi, il mare non racconta mai, i baci che mi dai, amore, tu lo sai. E nell'alba siamo ancora qui, il sole nasce e ci saluta. Sarà finché la gente sulla spiaggia ci stupirà. Il mare non racconta mai i baci che mi dà. Amore, tu lo sai, ora dormi sotto il sole con me e poi sognami e col pensiero. Amare come sempre fai, un bene grande come mare tu mi ruberai. Il mare non racconta mai i baci che mi dai. Amore, tu lo sai. Mare non racconta mai, cantavano i Camaleonti nel 1966 e noi rimaniamo in quello stesso anno però ad altre latitudini, Banzo, no? Ci spostiamo un bel po', direi. Sì, esatto, dopo esserci soffermati in Italia per alcuni brani, voliamo negli Stati Uniti che ovviamente con la loro fervidissima scena musicale e anche le loro dimensioni hanno avuto moltissimo da raccontare sull'estate. Cominciamo con, ecco, si parla sempre di estate al mare in montagna, cominciamo con L'estate in città, Summer in the City dei Loving Spoonful, una canzone che negli anni 60, nel 66 per la precisione, raggiunse il primo posto nella classifica di Billboard per 3 settimane. Eh sì, era giusto l'estate prima della Summer of Love del 1967. Loving Spoonful, Summer in the City. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Summer in the City, Loving Spoonful. Noi rimaniamo sempre dall'altro lato dell'Atlantico, Banzo, per trovare una canzone che forse, insomma, si ascoltava nella Summer of Love del 67. Che ne dici? Non lo so, è possibile, visto il periodo storico, perché si tratta proprio di un brano di quell'anno. Personalmente posso dire che mi sembra incredibile, mentre lavoravamo alla selezione, riflettevo, ma davvero quest'anno l'abbiamo... E sì, mancava dalle precedenti edizioni, questo per dire che sono state scritte talmente tante canzoni sull'estate che a volte ci sono anche delle omissioni eccellenti che, diciamo, sfuggono, e in questo caso abbiamo voluto rimediare con questo classicissimo. Vi proponiamo Lee Hazelwood e Nancy Sinatra, Summer Wine. Eccola qui, 1967. Cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer. Summer Wine 1967, Lee Hazelwood e Nancy Sinatra per questo speciale Le canzoni dell'estate 2022, quinta edizione qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Banzo, noi rimaniamo sempre da quelle parti, qualche anno prima, 1963, torniamo un po' di, insomma, rock and roll da spiaggia, che ne dici? Molta voglia di ballare. Ecco, sì, perché questa canzone non contiene un riferimento esatto all'estate, però si tratta di un brano surf, quindi genere californiano, è difficilissimo associarlo ad altre stagioni, non so se sia mai esistita surf music autunnale o invernale, ecco come perché non stiamo parlando effettivamente, stiamo parlando della California, non del Minnesota, quindi è molto facile ricollegarsi a questa atmosfera. Questo è un brano dei Surfaris, si intitola Wipeout, forse il nome del gruppo e il titolo della canzone non vi dicono molto, però si tratta di uno di quei riff che conoscete senza saperlo, magari senza collegarli direttamente all'interprete, però è inconfondibile, come sentirete fra pochissimo. Immediatamente, The Surfaris. Wipeout. Sai cosa, Banzo? A me adesso è venuta una gran voglia di prendere un surf, andare su in cima a Montjuic e scendere a tutta birra. Ecco, non so se troverò le onde o delle pietre che mi faranno scavallare rapidamente. Considerando che stai parlando di Montjuic, non mi sembra proprio il luogo più adatto per praticare il surf. Hai ragione, c'è un po' il rischio di rivederti al pronto soccorso. Io in questo momento sono in Romagna, non potrei portarti i cioccolatini, Steven, mi raccomando. No, sto attento, ascolta Banzo, però noi andiamo avanti adesso e troviamo una cosa un po' particolare. Ecco, guarda, continuiamo un attimo con la musica strumentale, anche se si tratta di una cover, l'originale non era strumentale, però sai che io ho una passione per le cover bizzarre e qui diciamo che veramente questo è un caso da manuale. Si tratta dei Cacao, duo ravennate dalla insolita formazione, cioè basso e chitarra, che ci propongono, anche dimentichi dei loro trascorsi nel gruppo, diciamo, pop punk rock Action Man, ci propongono un suono assolutamente psichedelico e vagamente allucinato, e in questo caso una cover imprevedibile della famosissima Lambada dei Kaoma, che anche quella, ricorderete, chi c'era a fine anni 80, anche solo in versione infantile, ecco, ricorderà questo brano perché ha veramente dominato le classifiche. Ma diciamo che è stata una Despacito del periodo, ecco. E come? E ecco, è una canzone assolutamente indimenticabile, ma non l'avete mai sentita, nel bene e nel male, ma non l'avete mai sentita come state per sentirla adesso, ecco. Ecco, nella versione dei Cacao, eccola qui, sentitevi questa Lambada che il Banzo ama molto e so che balla tutte le mattine prima di andare al lavoro. Thank you. effettivamente io una versione della Lambada così non l'avrei mai immaginata, quella dei Cacao uscita nel 2021. Banzo, noi rimaniamo in tema versioni perché adesso proponiamo ai nostri ascoltatori un'altra cosa abbastanza particolare. Esatto, due strumentali in sequenza e adesso due cover in sequenza collegate, perché quella dei Cacao era sia uno strumentale che una cover. Adesso abbiamo una impossibile cover di Vento d'estate, brano celeberrimo di Max Gazzè, nell'interpretazione di Musica per bambini, alias di Manuel Bongiorni, che, il cui stile è profondamente indefinibile, Steven. Eh sì. Diciamo che si tratta di un mix di canzone, cabaret, breakcore e campioni dell'origine più svariata. È uno stile estremamente riconoscibile quanto difficile da descrivere in poche parole. La canzone la conoscerete senz'altro, quindi se non conoscete Musica per bambini, questo è un esempio abbastanza chiaro e rappresentativo del suo stile. Godetevelo perché è anche brevissimo. Vento d'estate, nella cover di Musica per bambini. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mandamento, è cambiato come cambia il vento, cambia il vento, cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, non lo aspettate, forse mi perdo nel vento d'estate, io vado al mare, voi che fate, non lo aspettate, forse mi perdo nel vento d'estate. Ho pensato al suono del sole, come cambia in base alle persone, ho capito tutto in un momento, ho capito come cambia il vento, cambia il vento, cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, voi no, non mi aspettate, forse mi perdo nel vento d'estate, io vado al mare, voi che fate, non mi aspettate, forse mi perdo nel vento d'estate. Ciao, Musica per bambini, effettivamente è davvero geniale questo artista. Fausto, ritorniamo con te perché insomma mancano, fino ad ora sono mancati un po' gli anni 80, no? E adesso invece sì che ci immergiamo in qualche brano degli anni 80 che ha a che fare con l'estate. Esatto, partiamo in versione veramente sperimentale, avant rock, non volevo essere da meno del Banzo per una volta, quindi dico, scelgo qualcosa di particolare anch'io. Siamo nel luglio dell'83. L'83, gli Stormy Six, che ben conosciamo ovviamente, il gruppo storico della scena alternativa italiana, sono praticamente sciolti, però Franco Fabbri riceve un invito a partecipare a Montepulciano, al Cantiere Internazionale dell'Arte, e decide di convocare alcuni ex membri del gruppo e anche alcuni musicisti dei Cassiber, spero di pronunciare bene il nome del gruppo anglo-tedesco, e praticamente di realizzare un disco nuovo, brani inediti, partendo da varie improvvisazioni. E una di questi, la prima che viene realizzata, appunto è quella che andremo ad ascoltare adesso, Coste, con un testo molto significativo di Umberto Fiori, ovviamente. E vabbè, allora ce l'andiamo ad ascoltare, approfitto anche per salutare Franco Fabbri, che è stato in passato nostro ospite, 1983, con questa Coste. Thank you. Cassiber e Stormy Six, ossia Cassix con Costera, 1983. Rimaniamo in quegli anni, Fausto, e rimaniamo in Italia per una canzone un po' diversa invece. Sì, leggermente diversa. Rimaniamo in Italia con Giallo uguale Sole. È un brano dell'album Immersione di Adriano Pappalardo, che cerca di scrollarsi di osso l'immagine di macho che l'ha caratterizzato in tutti gli anni 70 e, diciamo, cambia tematiche. Per una volta dedica un intero album alla gioia di vivere in mare l'estate, partendo anche da questo brano che ci mostra come sia possibile immaginare l'estate a Milano anche durante l'inverno. E il testo è di Franca Evangelisti, storica collaboratrice di Renato Zero, per dire, il Carrozzone l'ha scritto lei, quindi per dire, sì. Veramente grandi collaboratori, e produzione di Lucio Battisti. Erano molto amici in quegli anni. Sta cominciando a lasciare la scena pubblica, pubblica in questo caso il suo ultimo comunicato stampa per presentare il disco, e dopo da lì partirà invece la sequenza dei 5 album bianchi con i testi di Pannella, che ben conosciamo. Andavano a fare surf, windsurf insieme sul lago di Garda con Pappalardo, da quanto racconta, insomma, chi di conosce bene la vita di Lucio Battisti. Adriano Pappalardo, Giallo uguale Sole. Esatto. Eccola qui. Sì, una canzone che forse non mette in risalto però la capacità vocale di Pappalardo, è vero o no, Fausto, per quanto sia comunque un buon brano e particolare, voglio dire? Sì, no, probabilmente cercava di rinnovarsi in quel periodo, sì. Fece anche l'anno dopo un album con i testi di Panella, quindi era un tentativo di variare appunto dai brani a gola. Ricominciamo, tutte le dame, che lo conosciamo tutti, esatto. Rimaniamo in Italia anche con il prossimo brano, però un po' più vicino a noi a livello cronologico, per così dire. Certo, Nada è stata una protagonista degli anni 70, degli anni 80, e ovviamente a partire dai 90 ha cominciato la sua carriera di cantautrice completa, quindi scrivendo sia testi che musiche, e ricordiamo bene l'esperienza del Nada Trio, che l'ha portata anche a riscoprire in chiave acustica gran parte del suo repertorio. Mm-hmm. E ne approfittiamo anche per ricordare Fausto Mesolella, che era il componente del Nada Trio, che ci ha lasciato un po' di anni fa. E così, poco prima di lasciarci, è uscito quest'album, Nada Trio, nel 2017, con un rifacimento di L'estate sul mare, rifacimento di un brano che Nada aveva inciso l'anno prima, quindi veramente un quasi in tempo reale, una versione acustica che ho preferito scegliere rispetto alla versione uscita l'anno prima, e comunque con una tematica che direi cazza con i tempi che viviamo, perché si parla di zanzare che fanno male e di cerco un po' di fresco per dormire, questo il cerco fresco che lo stiamo cercando tutti, esatto. E le zanzare nella bassa romagnola e nel ravenate le immagino, quindi andiamo a ascoltarci questa, non ce le facciamo mancare mai. L'estate sul mare, Nada Trio, con anche il grande Fausto Mesolella. Passo pomeriggi a schiacciare le formiche, a cullare questo cuore senza amore, mentre le zanzare fanno male. Cerco un po' di fresco per dormire, ma tu sei lontano, non vorrai tornare qui. E mi stendo sopra il davanzale, questo fresco sa proprio di mare. Un treno da lontano sta scappando, al cielo io mi ci raccomando. Amore, amore, mentre ti aspetto, ti prego, arriva presto, arriva presto, perché la sera non so proprio stare senza amore. L'estate sul mare, resto sprofondata nelle ombre di un sogno, a sognare un'altra estate da passare dentro quattro birre e un cannone per calmare la disperazione. Cerco il paradiso che sai darmi solo tu. Amore, amore, mentre ti aspetto, ti prego, arriva presto, arriva presto, perché la sera non so proprio stare senza amore. L'estate sul mare, perché la sera non so proprio stare senza amore. L'estate sul mare, senza amore. L'estate sul mare. L'estate sul mare, Nada Trio, era il 2017, vi consiglio questo disco La Posa, ne avevamo parlato a suo tempo anche a Zibaldone, è veramente un gran lavoro, si sente la mano di quel genio che è stato Fausto Mesolella. E Rimanendo col nome Fausto, Fausto, continuiamo con esatto. te e rimaniamo in Italia, ritorniamo agli anni Ottanta, sappiamo che l'estate fa caldo, ce lo racconta anche la prossima canzone, no? Esatto, si tratta di Abbronzate dai miraggi di Giuni Russo. Siamo in pieno Battiato style, perché veramente abbiamo Alberto Radius alla chitarra, gli arrangiamenti di Roberto Cacciapaglia, e fra gli autori c'è anche Francesco Messina, che è stato uno storico collaboratore di Battiato per tutti gli anni 80 e 90, quindi veramente manca solo la firma di Battiato, che cominciava a ridurre un po' le collaborazioni con altri artisti per concentrarsi sui suoi brani, però lo stile si sente, la sonorità sono quelle, e abbiamo un tentativo di fare comunque un brano estivo, comunque diverso dal solito, anche se non è riuscito a replicare il successo di Una giornata al mare dell'anno prima, che era stato veramente un trionfo. Qui però abbiamo veramente le doti vocali di Giuni Russo al suo meglio, e anche una citazione finale dalla mia canzone del vento di Bixio Cherubini, un brano del 1939, quindi veramente anche il gusto per le citazioni non manca nemmeno in questo caso. Non manca mai. Giuni Russo, Abbronzate dai miraggi, erano i primi anni 80, godetevela. Una supplente di pantelleria, speriamo ricominci presto la scuola, speriamo che ci insegnino ad arrossire. Donne troppo indipendenti, abbronzate dai miraggi, ma innamorate solo al mare. In un'isola deserta voglio andare ad abitare, ma quello sguardo cespuglia al mare, un melograno è già maturo e fa venire voglia di provare, speriamo manchi presto la corrente. Thank you. abbronzate dai miraggi, la voce inconfondibile di Giuni Russo. Rimaniamo, Fausto, nell'Italia della Prima Repubblica, insomma gli sgoccioli prima dell'arrivo di Tangentopoli, l'Italia del pentapartito, del CAF, no? Che anni, adesso insomma li guardiamo indietro con nostalgia, pensando soprattutto a quest'ultima legislatura. Ma noi parliamo di musica, va. Esatto, passiamo a un brano dei Diaframma. Siamo nel 1988, quindi come hai detto bene, appunto gli ultimi anni della Prima Repubblica, e Federico Fiumani ha un po' di problemi col suo gruppo. Alberto Pirelli, il produttore dell'Ira Records, vuole imporgli modifiche, vuole imporgli un sound più elettronico. Lui allora rompe con l'etichetta e si produce l'album box da solo praticamente. E già che c'è, questo brano, che era previsto con la voce del cantante dei Diaframma, Miro Sassolini, decide di cantarlo da solo. E quindi è il primo brano che è cantato direttamente da Federico Fiumani, oltre che scritto da lui. E da lì in poi sarà sempre così, e Diaframma diventerà praticamente l'alter ego, insomma, il nome d'arte di Federico Fiumani. E lui ha scritto che questo testo gli è stato ispirato da un film di Dino Risi del 65, L'Ombrellone. Per il senso di spaesamento che prova Enrico Maria Salerni, protagonista del film, quando va a trovare la moglie al mare, e quindi ha cercato di rendere, ovviamente aggiornata agli anni 80, quelle atmosfere. Caldo, 1988, i Diaframma, la voce anche questa inconfondibile di Federico Fiumani. Non basta tenere soltanto gli occhi aperti per buttare giù un sorso di caffè. Fuori fa caldo e chissà se dietro le serrande abbassate c'è qualcuno che ha coraggio da vendere e fa l'amore. Io sono venuto a trovarti al mare per guardarti nuotare e baciare i tuoi bambini. Io avrei voglia di sapere se di umanissimi ombrelloni sei stanca, se pensi a me. I tuoi amici sono un mucchio di stronzi, hanno facce da ricchi premi, bel cotillon. Vestito come in città, il caldo picchia in testa e al cuore, scioglie gli affetti e forse li fa cambiare. L'autostrada è una macchia d'olio, l'autostrada è una serpe che striscia, o è soltanto un miraggio sulla via di casa. Steso su un divano di pelle con la radio che urla buone vacanze, poi un pensiero esplode, sono chiuse le fabbriche. Caldo, non vale la pena ricominciare con questo caldo. Ah, non vale la pena ricominciare, non vale la pena ricominciare. Il primo brano, come ci ricordava prima Fausto, cantato da Federico Fiumani, uscito con il nome 20 di Diaframma, era il 1988. Banzo, ritorniamo con te, rimaniamo negli anni 80, ma anche in questo caso, come prima quando chiacchieravamo con te, passiamo dall'Italia a altre latitudini, un po' più anglofone, per così dire. Ecco, esatto, andiamo in Inghilterra, e d'altronde cosa c'è di più inglese degli Smiths? Forse solo i Beatles. Sono qualcosa di forse la regina, la regina, dai, direi. La regina è una squadra di Reggio Calabria, Steven. Comunque, ecco, scusate, mi sono giocato una delle peggiori battute della storia, chiedo venia. È colpa del caldo, via. effettivamente, ecco, dopo la regina e i Beatles mettiamo gli Smiths come qualcosa di arcinglese oltre misura, e questo è il brano Ask del 1986. Potreste chiedervi cos'ha di estivo, anche considerando che, beh, considerando che uscì in ottobre, però c'è comunque un riferimento nel testo, tre versi che recitano: passare giorni d'estate al chiuso scrivendo versi spaventosi a una ragazza dai denti sporgenti di Lussemburgo, anche tradotto in italiano la poetica di Morris è irriconoscibilissima, prima che cominciasse ad avere posizioni politiche molto discutibili, non certo il veganismo, quanto piuttosto uscite xenofobe difficilmente difendibili, diciamo che è un po' svalvolato, ma ci piace ricordarlo così, scrivendo versi come questi che sono tuttora immortali, anche se questi non sono fra i suoi più famosi. No, certo, tra l'altro, insomma, immagino questa ragazza del Lussemburgo, che, voglio dire, quante ce ne saranno state negli anni '80 con i denti sporgenti, che avrà subito colto il riferimento. Non so se gli sarà piaciuto o meno. Comunque, insomma, noi ci ascoltiamo gli Smiths, Ask 1986. And shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verses to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ask me, ask, meglio detto, il titolo esatto è Ask the Smiths, 1986. E, insomma, siamo quasi verso i tre quarti di puntata e ancora non è apparsa una canzone in spagnolo, Banzo. Rimediamo, che ne dici? Beh, diciamo che è un po' una quota di rappresentanza in questo caso, perché comunque non ce ne saranno altre, anche se avremo modo di rimediare, credo, in edizioni future, perché siamo già alla quinta edizione, avete avuto modo di vedere, le canzoni sull'estate sono infinite. Comunque, adesso vi proponiamo Luis Luis Miguel, il Sol de México, mi dice Wikipedia, io non avevo mai sentito questo soprannome, con un brano del 1984, La Chica del Bikini Azul, diciamo 1984, anno che precede il suo arrivo trionfale in Italia con la canzone Ragazzi di Oggi, e appunto il brano La Chica del Bikini Azul verrà reinciso anche in italiano per sfruttare l'onda del, per cavalcare o creare l'onda del successo di Luis Miguel. Comunque passiamo al brano in lingua spagnola con una sonorità diciamo un po' yeye, però aggiornata agli anni 80. La Chica del Bikini Azul, lui è Luis Miguel, 1984. Solo in triste bajo il sol en la playa busco amor de aprender un lugar para mí. Gentes vienen, gentes van, con las aguas luz y sal y nieve, el calor sube y más. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, es ella es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. Ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, es ella es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo. La Chica del Bikini Azul, Luis Miguel, anni 80, From Mexico with Love, Banzo, insomma l'estate, il caldo torrido, la voglia di mare, le ragazze e appunto i bikini, perché insomma noi sui bikini adesso ci concentriamo un momentino, no? Un piccolo speciale dentro questa puntata di Zibaldone dedicato alle canzoni sui bikini. Sì, rimaniamo in zona bikini con un brano che si intitola Zona Bikini. Non l'avete mai sentito nominare, non mi sorprende, si tratta di un brano del duo milanese Zero Zen, non li avete mai sentiti nominare, può essere, un brano dalla carriera brevissima, 2 anni di attività fra il 98 e il 2000, un album e una manciata di singoli, 6 per l'esattezza, questo era il penultimo uscito nel 2000 ed era un po' una tendenza che c'era all'epoca nella musica italiana indipendente, cioè pop rock ammiccante ma dai testi un po' alternativi, un po' strani diciamo, con voce femminile e non lo so, volendo tracciare un riferimento anche se erano un gruppo un po' più punk, può essere che sia stato un micro trend lanciato dal successo dei Product Più, non lo so, intorno al 97. Comunque, come sentirete, un testo bizzarro che speriamo vi sorprenda in qualche modo. Io lo ricordo dall'epoca, spero che per voi sia una piacevole scoperta. Ecco, insomma, diciamo che questa canzone non ha portato bene agli Zero Zen, noi però ce l'ascoltiamo comunque. Era l'anno 2000, Zona Bikini, Zero Zen, qui su Zibaldone. Preferisco l'enne alla tintura chimica. Mi fa un po' paura e poi non dura. Al tatuaggio preferisco il mio linguaggio. Ose. Che effettivamente me la sono ricordata anch'io ora questa canzone, Banzo, l'estate del 2000, quella in cui si perse, insomma l'Italia perse la finale degli europei che aveva segnato Del Vecchio e poi insomma ci hanno fregato i francesi e io avevo pure fatto la maturità. Comunque insomma, bando alle ciance, lasciamo perdere i ricordi del passato. Banzo invece insomma, dicevamo, gli Zero Zen, un formato pop, voce femminile, un po' insomma ricordano i Prozac più, ma soprattutto i Delta V o Delta V che dir si voglia, e approfittiamo per salutare anche il nostro amico Flavio Ferri, colonna portante di Delta V e nostro amico che ci ha fatto anche due jingle per Zibaldone, insomma gli mandiamo un grande abbraccio. Banzo, torniamo un po' indietro nel tempo, no? Sì, comunque diciamo che ecco, Flavio Ferri comunque non ha nessun collegamento con gli Zero Zero. No, certo, assolutamente. Nostra. Fausto Fuorionda mi suggeriva anche una somiglianza con certi testi alla Subsonica, era un buon riferimento. Comunque, proseguiamo a bomba, torniamo in un passato ancora più remoto, alla fine degli anni 70, con un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, invece, perché si tratta degli ABBA, non so se li avete presenti, probabilmente il miglior gruppo pop di tutti i tempi, almeno a mio giudizio, mi allargo un attimo, però la perfezione delle loro canzoni pop è indiscutibile, e qui abbiamo un brano, come ho già detto, del 1978, Summer Night City, che diciamo lascia trasparire le influenze del periodo, perché benché ci sia un inconfondibile sound ABBA, c'è anche qualcosa della disco che in quegli anni stava trionfando, come sentirete. Ce ne andiamo a sentire 78, Summer Night City di ABBA. Insomma, l'estate in città, che sia di giorno, che sia di notte, l'estate sul pattino, l'estate al mare, l'estate in spiaggia, ma insomma si può anche stare un'estate in montagna o almeno sotto l'ombra degli alberi di un bel parco, no Banzo? Esatto, perché un'estate sotto gli alberi è il titolo del prossimo brano, in inglese A Summer Beneath the Trees, che proviene dal del progetto Library Tapes, che è stato per un brevissimo periodo all'inizio un gruppo, poi è diventato il progetto solista del musicista svedese David Wengren. E diciamo, come per darvi un'idea delle sonorità, si tratta principalmente di musica per piano con la presenza di field recordings e disturbi elettronici, glitch. E comunque il piano è preponderante in questo brano e anche nella produzione successiva di Wengren, che ha anche inciso uno split con Nils Fram, se avete presente, pianista tedesco, sicuramente molto interessante e anche celebre. E comunque questo brano, tratto da un disco omonimo del 2008, alcuni anni dopo l'inizio del progetto, comunque Wengren ha anche inciso un mini uscito solo in formato digitale, che si chiama Summer Songs, 7 brani nel 2020, quindi ci riserviamo magari di estrarre qualcosa da quel mini nella prossima edizione delle canzoni dell'estate. Eh sì, quella del 2023, Library Tapes, Summer Beneath the Trees, eccola qui. Che tranquillità, che calma, che pace. Ecco, io ho chiuso gli occhi e mi sono visto sotto l'ombra di un albero, no? Con questo caldo che c'è, ecco, magari sì, con una birra a fianco. In ogni caso, insomma, ultimamente si dice, Banzo, che non esistono più le mezze stagioni, no? Che la primavera non c'è più, finisce l'inverno e comincia l'estate, no? Si dice anche troppo, effettivamente, sì, perché... Quest'anno però è vero, è stato vero, eh? Beh, nel nostro inesausto parlare del tempo, beh, sì, effettivamente, al di là delle chiacchiere da bar o da ascensore, io sono convinto che effettivamente qualcosa nel clima stia mutando. Non credo che si tratti di una cospirazione, come dicono quelli che credono alle cospirazioni più improbabili, ecco. E nemmeno che il risultato sia, sì, Banzo, come dice Trump, come ha detto recentemente in Alaska, accompagnando Sarah Palin, no? Leader del uno dei leader del Tea Party una decina d'anni fa, che vabbè, insomma, crescono i mari perché fa più caldo, vabbè, insomma, avrete così tutti la casa più vicina al mare, ecco, così, insomma, ha detto Trump. In ogni caso, chiudiamo questa parentesi. Due luminari, comunque. Sì, assolutamente, assolutamente. E comunque parlavamo di estate, diciamo, improvvisa, perché questo brano, il prossimo brano, si intitola Early Summer. Rimaniamo nella musica strumentale, che è un territorio infinito che a me piace esplorare a Zibaldone, nonostante il nostro taglio più cantautorale di solito. Però cambiamo totalmente genere, il piano resta protagonista, ma si tratta di un brano di jazz giapponese, Steven, dal disco Scenery del pianista Ryo Fukui, che è un disco, che il suo disco d'esordio di una discografia abbastanza sparuta, Siamo in territori bebop, hard bop, diciamo, piano predominante. È un disco che ha vissuto una riscoperta in tempi recenti, forse non sono in grado di dirlo con sicurezza, era passato un po' sotto traccia all'epoca, però è stato oggetto di un recupero nell'ultimo decennio, perché insomma, lo sentirete, il suono è intenso e il piano playing è maestoso. A noi qui poi il bebop ci piace, quindi insomma ce l'andiamo a ascoltare questa Early Summer, Ryo Fukui. Thank you. Beh, ma che energia, come ci piace Ryo Fukui qui a Zibaldone. Early Summer era il 1976. Noi Fausto facciamo un salto indietro e anche ci spostiamo un bel po' in quanto a chilometri, a latitudini. Arriviamo nella Francia del 1975. Che succedeva là l'anno prima? Allora, nel 75 Nino Ferrer, all'anagrafe Agostino Ferrari, cantautore italo-francese che aveva ottenuto grande popolarità negli anni precedenti, ormai si è stabilito in Francia, abita nei pressi di Parigi in una proprietà di stile coloniale che gli ricorda un po' l'Italia e un po' anche la Louisiana, e proprio questa proprietà in cui vive e dove ha il suo studio di registrazione gli ispira le parole di Le Sud, un pezzo che nasce senza particolari aspettative e che invece diventerà il suo più grande successo. Vendette più di 1 milione di copie in Francia, ne uscì anche una versione in italiano che non ebbe lo stesso riscontro, e tuttora credo che sia dei suoi brani la cover più eseguita in tantissime occasioni. Davvero un pezzo con un riferimento appunto all'estate, questa cosa del Toujours en été, che fra l'altro è diventato anche il titolo di una compilation a lui dedicata pochi anni fa. E c'è anche un riferimento comunque malinconico, perché questa vita nel sud, che potrebbe durare milioni di anni, viene rovinata, diciamo, dalla guerra. E quindi siamo veramente comunque in eterna attualità, perché si dice a un certo punto che un giorno o l'altro bisogna che ci sarà la guerra. Lo sappiamo, non ci piace, ma non sappiamo cosa fare. Si dice è il destino, tanto peggio per il sud, si sarebbe potuto vivere più di 1 milione di anni e sempre in estate, dice questa nota malinconica che direi che ci sta. Ci sta molto e andiamo ad ascoltarci Nino Ferrer, Le Sud, 1975. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement. Un million d'années et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été. Thank you. que c'est bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. L'ondata di caldo non dà tregua, ma con gli ultimatum non si lavora. Piano di emergenza italiano per l'autunno, PD, Italia Viva, sindaci, governatori considerati non essenziali, quanto la Valle d'Aosta. Il Po non è più navigabile per lunghi tratti, non posso, venuto meno il patto di fiducia. Salvini non deve permettersi ora bere molta acqua senza rispetto. Nonostante tutti i problemi che ci riguardano, la crisi di governo ha riempito le pagine dei giornali. Draghi sale al Quirinale per comunicare gioia o tristezza, ben oltre le mode. Francesco Totti e Ilaria Blasi, lo strappo non l'abbiamo voluto noi. La linea dura di Conte divide ancora di più i 5 Stelle, decine di parlamentari sarebbero pronti a girare in costume oppure senza, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. È la Woodstock del nuovo tempo. Scattano le ordinanze estive per il passeggio con i cani fra Russia, Ucraina, Turchia e ONU. Obiettivo aprire un corridoio per il porto di Odessa, che travolge un gruppo di ciclisti amatoriali. Gas, il ministro Cingolani, in Italia non ci preoccupa. Tanto non ce l'abbiamo. Gazprom gela l'Europa, non possiamo garantire il funzionamento del Jova Beach Party. Aeroporti nel caos, cancellazioni e ritardi rischiano di trasformare in una fastidiosa Woodstock del Bresciano. Le vacanze degli italiani. Chi è rimasto bloccato in aeroporto avrebbe perso il 30% dell'efficacia nella lettura del quotidiano La Repubblica fino a gennaio 2023. L'annuncio al termine di una giornata convulsa e drammatica. Dalla NASA la prima storica foto del nuovo telescopio Webb. L'ospedale civile di Ragusa come non era mai stato visto prima. Uno stile forte e inconfondibile conosciuto in tutto il mondo. Ora però loro chiedono e meritano privacy e rispetto. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se ti allontani sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, se ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, l'estate, la notte, la festa. La playa, l'estate, la notte, la festa. Tutto cambia colore dove non tramonta mai il sole. C'è una giungla sulla costa, nelle foto vieni mossa. C'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere. Ho scordato tutto tranne che eravamo insieme. La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, se ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, l'estate, la notte, la festa. La playa, l'estate, la notte, la festa. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita senza dormire, fammi vedere adesso come va a finire. La musica, l'estate, la festa, con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, la spiaggia che salta, io e te tutta la notte, dal tramonto all'alba. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, l'estate, la notte, la festa, la playa, l'estate, la notte. E loro sono Francesco Bianconi e Baby K, Playa. Prima avete sentito anche che sono tornate le ultimissime, le ultime della stagione, crisi di governo in Italia e tante cose, sempre con una visione un po' particolare. Ringraziamo Fausto De Salvia che quest'oggi ci ha accompagnato e che è l'autore da ormai parecchie stagioni delle ultimissime. Fausto, innanzitutto grazie di essere stato con noi e di averci accompagnato quest'oggi e di averci accompagnato in realtà in tutta la stagione di Zibaldone. Certo, il piacere è tutto mio. Credo che sia ormai la sesta stagione di ultimissime, quindi andiamo avanti con la settima. Eh certo, a appena settembre si torna dalle ferie e poi si riparte, vedremo che governo avremo, se ci sarà un governo soprattutto, e se ci sarà un governo e se magari la realtà supererà la fantasia. Questo spesso succede nella politica italiana, solo vivendo, quindi. Solo vivendo, ma nella politica italiana succede sempre più spesso. Allora, Banzo, torna con noi per dirci qualcosa su questo brano di Bianconi e anche poi per dirci con che brano ci salutiamo. E beh, un brano di Bianconi che in realtà non è un brano di Bianconi, è un brano di Baby K, però Bianconi ci permette di mettere una canzone di Baby K, che è un artista un po' fuori dalle nostre corde, diciamo. Comunque è tratta da un album che vi abbiamo già proposto a febbraio, il disco solista Francesco Bianconi Accade, uscito nel febbraio del 2022, un disco prevalentemente di cover o interpretazioni di Bianconi di brani scritti da lui per altri artisti. E ecco, questo era, diciamo, forse il brano più estremo, più lontano dalle corde di Bianconi, sì. Dalle corde di Bianconi, dalle sue latitudini artistiche, perché se andate a sentire l'originale di Baby K, che risale al 2019, c'è un ritmo che non è del tutto reggaeton, ma si avvicina molto, e questa è un po' la poetica di quell'artista. E d'altronde avevo visto un meme, sto facendo qualcosa di terribile, spiegare un meme alla radio, l'uomo dietro all'albero con la giacca gialla che si frega le mani soddisfatto, Il meme è: l'estate su Plutone dura 42 anni, Baby K, e c'è l'immagine, ecco, perché Baby K è eminentemente un interprete di canzoni estive. E dopo aver fatto questo terribile reato di, ha commesso questo terribile reato di boomeraggio, aver spiegato un meme alla radio, passiamo a presentare a bomba, sì, l'ultimo dici, brano, dici Banjo che dobbiamo l'ultimo chiudere. Brano della nostra selezione, che è anche un ultimo trago praticamente, perché è un altro brano del 2022 del grandissimo duo bucolico, uscito la title track del loro nuovo disco, uscito il 28 aprile del 2022, quindi veramente una novità. Il brano si intitola Via col vento, il disco, come vi ho detto, si intitola anche lui Via col vento, ed è un brano con la caratteristica ironia del duo che li rende inconfondibili. Grazie mille Banzo, grazie anche a Fausto di nuovo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci salutiamo appunto con Via col vento del duo bucolico, con questa canzone chiudiamo la puntata di quest'oggi, il quinto speciale Le canzoni dell'estate, e soprattutto chiudiamo la stagione 2021-2022 dello Ziballone qui su Radio Contrabbanda. Noi ci ritroviamo a settembre, buona estate, fate l'amore con il sapore, godetevi questa canzone del duo bucolico, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 19.55, anche quando faceva caldo a luglio, diceva sempre che... Ma veramente a settembre dobbiamo preoccuparci del governo nuovo? Forse anche prima, non lo so, perché... sì, c'hai ragione. Ciao Banzo, stammi bene! Pinta mal! Ciao Steven, ci sentiamo a settembre! Assolutamente, buon venerdì sera a tutti! Duo bucolico! Ho perso il mio pareo sulla spiaggia, me l'ha strappato un alito di brezza. Vola il mio pareo come un piccione, sotto il sole di Riccione. E adesso sono nudo qui con te, adesso sono nudo, sai perché? Ho perso il mio pareo sulla spiaggia, l'ho perso ma non sembra ti dispiaccia. Via col vento, via col vento. Bevi, bevi il tuo mojito e indichi il mio corpo con un dito. La spiaggia è tutta rossa all'imbrunire e anch'io son tutto rosso di pudore. Ho perso il mio pareo firmato Zara, l'ho perso e poi mi appunto una zanzara. Tra linguine e perineo, proprio dove prima era il pareo. Via col vento, via col vento, via col vento. Come dogana, il corpo come confine, il corpo come no man's land, il corpo come barriera, come frontiera, come ostacolo, come ingombro, il corpo come filo spinato.